il mio cuore. Padre, un desiderio in me. Signore, ascolta la mia anima e ti brama. In ogni tempo senza te mi sento così vuoto, oh Gesù, voglio stare insieme a te. E la mia vita lontano da te è totalmente inutile, Signore, voglio vivere con te. Pensieri, Padre, ho una speranza in me, Signore, ascolta il mio spirito che ti brama, ti desidera. Sai una cosa, chiesto a Dio, solo quella cerco, di dimorare nella casa sua per sempre, per contemplare la bellezza sua e ammirare il suo tempio. Signore, voglio vivere con te. Jesus.